Sesta unità. In albergo. Dialogo. Alla reception. Buonasera, desidera? Mi chiamo Jackson. Ho una camera prenotata per questa notte. Jack, può ripetere il cognome lettera per lettera, per favore? Ilunga A-C-K-S-O-N. Vediamo. Ah, sì, ecco. È la camera 423. Una singola con bagno. Da sull'interno? No, sulla strada. Allora è certamente rumorosa. Non c'è una camera silenziosa sull'interno. Spiacente, signore. Per questa sera tutte le singole sull'interno sono occupate. C'è una doppia. Ma io non voglio pagare per una doppia. Quanto costa? 130.000 lire, mentre la singola costa 95.000. La colazione è inclusa nel prezzo? No, si paga a parte. Se non si può fare diversamente, pazienza. C'è il telefono, vero? Sì, ci sono tutte le comodità, anche la televisione. Bene, allora prendo la doppia. D'accordo. È la camera 312 al terzo piano. Bene. Scusi, dov'è l'ascensore? In fondo a destra. Se crede può cenare in albergo, si mangia benissimo. Ah sì? E a che ora si cena? Dalle 19 alle 22. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Buonasera. Desidera? Mi chiamo Jackson. Ho una camera prenotata per questa notte. Jack, può ripetere il cognome lettera, per favore? Ilunga A-C-K-S-O-N. Vediamo. Ah, sì, ecco. È la camera 423. Una singola con bagno. Da sull'interno? No, sulla strada. Allora è certamente rumorosa. Non c'è una camera silenziosa sull'interno? Spiacente, signore. Per stasera tutte le singole sull'interno sono occupate. C'è una doppia? Ma io non voglio pagare per una doppia. Quanto costa? 130.000 lire, mentre la singola costa 95.000. La colazione è inclusa nel prezzo? No, si paga a parte. Se non si può fare diversamente, pazienza. C'è il telefono, vero? Sì, ci sono tutte le comodità, anche la televisione. Bene, allora prendo la doppia. D'accordo. È la camera 312 al terzo piano. Bene. Scusi, dov'è l'ascensore? In fondo a destra. Se crede, può cenare in albergo. Si mangia benissimo. Ah sì? E a che ora si cena? Dalle 19 alle 22. Vocaboli, pagina 155. Divano, poltrona, armadio, comò, ventilatore, radio, vasca, frigorifero, condizionatore, doccia. Sesta unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 18. Prenotare una camera. Pronto? Hotel Splendid, buongiorno. Buongiorno. Chiamo da Roma. Scusi, avete una camera singola per lunedì notte? Quanti giorni ha intenzione di stare? 3 giorni. Vediamo. Sì, la camera 225. È una camera molto bella al secondo piano. A che nome? Roberto Magli. Può ripetere lettera per lettera? Roberto? M come Milano, A come Ancona, G come Genova, L come Livorno, I come Imola. Bene. Ancora una domanda. C'è il garage? Sì, c'è. Molto bene. Allora a lunedì. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 167. Scusi, signora. Dice a me? Sì. Scusi, lei è di qui? Sì. C'è un albergo non molto caro da queste parti? Sì, l'albergo Trevi. Come, scusi? Trevi? No, Trevi. T-R-E-V-I. E dov'è? Alla piantina della città. Ecco. Guardi, questa è via Tevere. Noi siamo qui. Il Trevi è in fondo a via Mazzini, cioè qui. Non è vicino. Come ci arrivo? C'è un autobus? No, ma c'è il metrò. Guardi, quella è la stazione del metrò. Grazie tante. Prego.